l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, rieccoci qua in studio in diretta su Radio 24 con l'altra Europa dopo la puntata di settimana scorsa live dal Festival di Internazionale, e puntata che potete riascoltare sul sito di Euronet, euronet.eu, il network al quale apparteniamo, una voce comune per raccontare l'Europa, cosa che Radio 24 fa quotidianamente con tutte con tutti i suoi servizi, con la redazione, segue la cronaca, segue la politica, segue l'economia. Noi il sabato cerchiamo anche altre sfaccettature dal nostro continente. Ci potete seguire anche su Facebook, nelle nostre pagine ufficiali facebook.com/l'altra Europa, che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link, i video e gli audio di cui parliamo, oppure via SMS al 349-238-6666. Insomma, queste sono tutte le coordinate per seguirci, e si parte oggi dalla Grecia. Squad No Shop στο Μάθιο. Το Σάββατο 15 Οκτώβρη, 12 με 8, στο Σύμφυλλο Κοπερατίβα. Ένα πάρτι με αντικαταναλωτικό και αντικαταστατικό σκοπό. Φέρε σε μια τσάντα ρούχα και αξεσουάρ που δεν χρειάζεται, και αντάλλαξε τα χωρίς κανόνες και χρηματικό κόστος με ό,τι σου αρέσει. Ό,τι σου αρέσει. Ό,τι σου αρέσει. Quello che state ascoltando è uno spot che pubblicizza un evento, un'iniziativa simile a tante altre che stanno nascendo in questi mesi nella Grecia, colpita pesantemente dalla crisi. Abbiamo parlato tante volte di questa crisi, abbiamo parlato altre tante volte di come per esempio la creatività sia diventata un'ancora di salvezza per tantissimi che cercano nuove attività e nuove soluzioni. Beh, la realtà, la quotidianità è fatta anche del baratto, che ritorna in Grecia come una possibile soluzione. Adesso un baratto evoluto, un baratto moderno, un baratto che prende tante forme e tante specificità. Si parla anche di una nuova moneta, una unità locale alternativa, OTEM in greco, una sorta di moneta che è merce di scambio, ci scambiamo un mio servizio in cambio di un tuo bene. Insomma, qualcosa che sta accadendo, qualcosa che il governo anche sta di fatto appoggiando, o perlomeno non sta ostacolando. E per capire quello che sta accadendo e di cosa si tratta quando si parla di baratto, abbiamo invitato Tania Bosanino, giornalista greca, scrive per il giornale Tobina, che è un importantissimo quotidiano greco. Ciao Tania, benvenuta all'Altra Europa. Ciao. Ciao, come stai? Bene. Tania, allora, si parla di baratto, anche se forse non è il termine adatto, però è forse quello più simile, quello più vicino alla realtà. Ci puoi spiegare tu cosa sono queste nuove forme di scambio che stanno nascendo in Grecia? Sono delle rete all'internet dove i membri possono offrire beni e servizi e comprare altri beni e servizi degli altri membri. Non usano euro, sì, però usano queste unità locali alternative, che se un membro vuole offrire delle lezioni di piano o di pasti cucinati, le offre, sì, accumula credito, sì, e può utilizzare questo credito per comprare altri beni o servizi di cui ha bisogno. Per esempio può offrire lezioni di piano e avere una babysitter per guardare i bambini in cambio. Certo, quindi ci sono anche altri tipi di rete dove si può regalare tutto che non ha bisogno più. Quindi appunto un modo un po' per utilizzare le scorte, diciamo, oggetti che uno ha in casa e non vuole più utilizzare, quindi li può offrire per scambiarli non con altri oggetti ma anche con servizi, come tu ci hai detto, oppure se io particolari talenti o particolare capacità posso metterle al servizio in cambio di altro. Diventa una sorta di valorizzazione del tempo, diciamo, e delle risorse. E sta prendendo piede, si sta diffondendo molto come modalità di sopravvivenza, chiamiamola così. Sì, gli ultimi mesi sì, perché ha avuto molti tagli salariali. Hai molta gente disoccupata del settore pubblico e del settore privato, scusa, e al settore pubblico i salari si sono tagliati anche a di 50%. Certo. Allora la gente deve trovare altre forme per i suoi bisogni. Certo. Altre forme di di aiutarsi entro noi. Qui una sorta di rete di solidarietà e anche il pubblico la appoggia. Leggevo per esempio del sindaco di Volos che ha detto che appunto la città segue lo sviluppo di questa rete della moneta alternativa e ha messo a disposizione per esempio sul proprio suolo anche una fattoria urbana dove incentivare proprio questa attività di solidarietà reciproca e lo stesso governo appunto ha sottolineato l'importanza di queste reti, ma possono essere una soluzione concreta secondo te al bisogno, al gravissimo bisogno che c'è di fondi, di beni, anche di visioni, diciamo, di speranza? È il futuro, perché non ci sono soldi nel mercato greco. Allora dobbiamo trovare altre forme per offrire o per comprare beni e servizi, perché i soldi non ce ne sono tanti in Grecia adesso. Certo. Gli euro. Chi ha ideato queste reti o a cosa si sono ispirati gli ideatori? Queste reti esistavano da quasi una decina di anni, sì, ma erano troppo piccoli. Adesso non so come. Per causa dell'internet, perché l'internet facilita questo modo di scambio, perché ci sono delle reti dove i membri postano la foto di tutte le cose che vogliono offrire, regalare, e possono vedere i beni che gli altri membri offrono. Allora l'internet ha facilitato molto questo tipo di scambi e anche la necessità. Certo, insomma, quindi internet ha reso tutto più semplice, tutto più visibile, tutto più veloce anche, no? Questo baratto reale aiutato dal virtuale. E tra i fondatori della rete ci sono ex insegnanti. Leggevo un'intervista per esempio a un'insegnante in pensione, cofondatrice del gruppo, che dice: non siamo né rivoluzionari né evasori fiscali, e mettiamo appunto la solidarietà al servizio della nostra quotidianità, che credo che poi solidarietà forse non è neanche la parola giusta, è proprio mettere a disposizione non ci sono i soldi, ma c'è altro, ci sono altre risorse, c'è il tempo, ci sono capacità, e tentare di ottimizzare questa cosa dimenticando l'euro, non tornando alla dracma, ma utilizzando questa TEM, questa moneta che di fatto esiste fisicamente. Questi TEM sono un qualcosa di cartaceo, tu li hai mai visti? Sì. Sì, esistono, non si può comprare dei beni nei negozi, nelle aziende, ma si può presentare questa moneta, questa unità locale alternativa, e avere dei sconti. Ci sono dei negozi che partecipano in questa rete, e quando i membri vanno per esempio alla parrucchieria, sì, possono avere uno sconto se mostrano l'unità locale, se danno una unità locale alternativa. Certo, quindi insomma, per incentivare anche l'economia reale, diciamo. Sì. Tania, grazie, sì, davvero. Credo non sia facile fare i giornalisti in questo periodo in Grecia. C'è spazio per raccontare anche qualcosa che non sia la crisi? Poco. Poco, eh. Poco. È crisi, dimostrazione, austerità, nuovi misure di austerità. È tutto, sempre la crisi. Immagino. Grazie davvero Tania per il tuo contributo. Ricordiamo il sito del tuo quotidiano, il tuo bima, www.tovina.gr, appunto, che è il suffisso greco. Ciao e buon sabato e buon lavoro, grazie. Eccoci qua ancora con l'altra Europa, facebook.com/l'altra Europa, la nostra pagina in Facebook dove potete trovare i link, potete scriverci, potete mandarci anche dritti, suggerimenti, critiche, insomma è uno spazio vostro per interagire con noi. Abbiamo parlato della crisi greca, abbiamo parlato di una possibile soluzione oppure comunque di un'ancora a cui si stanno attaccando tanti abitanti con queste reti di solidarietà. Rimaniamo in tema di crisi, però cambiamo completamente nazione, andiamo lassù, andiamo in Islanda, nazione che amiamo, che spesso visitiamo con l'altra Europa. Un articolo, due pagine di lunedì scorso su Repubblica, si parlava del miracolo islandese, e qualcosa sta accadendo nel paese che di fatto è fallito, è stata la prima nazione che ha portato la parola crisi con il fallimento delle banche di qualche anno fa nel nostro continente. Qualcosa sta cambiando, qualcosa si sta muovendo, poi sono anche rimbalzate le immagini di un paio di giorni fa con la moglie del premier che scavalca la Transenna per andare a protestare o comunque ad abbracciare l'Indignados, anche loro stavano protestando contro la crisi davanti al palazzo del governo, insomma per avere un quadro della situazione, per capire se questo miracolo esiste davvero, quindi se possono esserci speranze. E abbiamo invitato un'amica dell'altra Europa, è una giornalista, una delle giornaliste più famose in Islanda, diamo il ben ritrovata a Tora Arnold Tora, tutte le volte il tuo cognome lo sai che per me è il grande gioco, dimmelo tu dai. Mi perdoni, insomma è giustificata, vero? Assolutamente. Come stai, Tora? Io sto benissimo. Mi fa piacere. Che prima di entrare a parlare di politica e di economia, dacci qualche immagine, com'è l'Islanda oggi? Qual è la cartolina ideale che tu ci potresti descrivere? L'Islanda a ottobre piove, c'è vento, fa un po' freddo, si sente che l'inverno sta arrivando, insomma, con tutti i colori, giallo, rosso, insomma, cioè, no, bello, bello. Assolutamente. insomma, è l'Islanda, no? Quindi quello ci deve offrire. Sì, da noi abbiamo quattro stagioni veri, quando c'è inverno, autunno, primavera. Unica cosa che ci manca è una vera estate. Guarda, da noi era estate fino a ieri l'altro, se ti può consolare. Poi c'è stato un cambio repentino, ma è stata un'estate lunghissima. Allora, Tora, questa parola, miracolo, si può davvero abbinare a quello che sta accadendo in Islanda o è un termine un po' esagerato? È un termine un po' esagerato, certo. Ieri, il 6 ottobre, erano passati 3 anni dal giorno quando il nostro primo ministro è apparito sulla TV e ha detto God bless Island, Dio benefica Islanda. Sì. E il popolo ha detto, ma dove stiamo andando? Cosa sta succedendo? E pensando a questi 3 anni che sono passati, alla fine la situazione certamente è molto meglio di quello che si sperava o si pensava a quell'epoca. Ci sono stati, cioè, quindi un miracolo? No, le cose vanno molto meglio, quello sì. Mm-hmm. E probabilmente soprattutto perché il governo e il Parlamento insieme, non solo i partiti che erano lì, i due partiti che erano al governo, ma tutto il Parlamento ha passato una legge di emergenza il 6 ottobre 2008, dove hanno deciso di trasferire tutti i risparmi, tutti i depositi dei cittadini alle nuove banche e hanno lasciato 9.000 miliardi di corone, che vuol dire 56 miliardi di euro, così nelle vecchie banche. Sì. Che poi sono finiti in liquidazione, e vuol dire che i creditori lì, che erano banche tedesche, che erano speculatori, sono stati lasciati lì mal freddo. Ma quello ci ha salvato. Certo, quindi quello che si è tentato di non toccare sono state un po' le tasche dei lavoratori, quindi gli stipendi e le pensioni, e questa cosa insomma ha tenuto viva perlomeno un filo di speranza, ma anche un po' l'economia, diciamo, del paese. Gli stipendi sono stati tagliati, sì. Le pensioni sono state abbassate, ci sono stati grandissimi tagli, sai, il sistema sanitario, agli ospedali, al sistema di educazione, ci sono stati grandissimi tagli. Ovviamente lo Stato l'ho dovuto fare. La cosa buona però è che qui... erano le banche che hanno rotto lo Stato, ma non lo Stato che ha rotto le banche, se capisci. Cioè, capisco, non sì. Erano debiti dello Stato, anche se sono finiti lì a parte. E, la cosa che fa ancora arrabbiare la gente è che i banchieri, che direi che sono quelli più colpevoli, non sono in prigione, non sono neanche ancora al tribunale, sono in Lussemburgo, a Londra, con le tasche piene, mentre il popolo, la gente ha dovuto tagliare, fare dei sacrifici grandissimi. E il fatto che loro sembrano di sfuggire fa veramente arrabbiare la gente, ma c'è ancora da vedere se il prosecutore viene fuori e li porta al tribunale. Comunque sono passati 3 anni. Certo, in questi 3 anni, Tora, e soprattutto in questo periodo, si parla molto di Unione Europea, di voglia di entrare, c'è un nuovo desiderio, si è risvegliata perlomeno la discussione su questo argomento. Anche qui, qual è la realtà, qual è il polso della situazione, tu che lo puoi toccare con la mano? Molto diviso. Sì, cioè, è veramente, perfino il governo è diviso, sono due partiti, l'uno ha deciso che bisogna fare la richiesta che abbiamo fatto e adesso stiamo facendo tutti gli come si dice, negotiation, sì, le negoziazioni, appunto. Ma il popolo è diviso veramente, il discorso è ancora un po'... Forse perché l'Islanda è stata indipendente solo per 60 anni, sì. Che hanno paura che quelli stranieri certo. Vengono qui a prendere la nostra energia geotermica, idroelettrica, il pesce, tutto quello, che siamo troppo piccoli per poter stare lì dentro. Certo. Invece noi con la corona, la nostra valuta è la valuta più piccola del mondo, più piccola del Disney dollar. Capito che cioè, va su e giù come le onde nel mare, certo. È impossibile tenere un bilancio economico con una valuta così, quindi l'euro sarebbe stata la soluzione, ma adesso quando guardiamo intorno ci sono tanti che dicono aspettiamo un attimo, vediamo un po' dove va a finire l'Europa. Insomma, è sempre un punto di vista privilegiato il vostro, no? Un osservatorio particolare, quello lassù in cima all'Europa. Sì. Sì, sì. Due domande ancora, Tora. La prima, ma il merluzzo è ancora parte fondamentale dell'economia islandese? Perché leggevo in questi giorni tantissimi articoli appunto sull'economia legata al merluzzo, sulle battaglie anche con le navi inglesi. È ancora parte fondamentale della cultura e dell'economia islandese? Assolutamente, anche se ci sono poche persone che sono pescatori adesso con le grandi barche e tutto quello, però sì, siamo stati fortunati che negli anni 80 abbiamo cambiato sistema, c'è un sistema di quota che vuol dire che non abbiamo pescato troppo, abbiamo tenuto il merluzzo e la ringa, tutti i pesci intorno all'isola vivo. Non come in Canada, dove in Canada dove hanno finito tutto, certo. In Spagna, dappertutto. In quel senso sì, il merluzzo ci dà una gran parte della valuta estera che viene portata, diciamo. Assolutamente, molto importante. E un'ultima cosa invece, abbiamo parlato qualche mese fa della iniziativa appunto della riforma costituzionale in atto in Islanda e del contributo tramite internet dei cittadini, sta proseguendo, c'è stato qualche riscontro? Sì. Hanno finito e la proposta è adesso al Parlamento, sì. Che adesso discute se il popolo voterà o no, se se il Parlamento decide di usare queste idee, questo documento, oppure se ci sarà un'elezione dove il popolo può decidere se queste idee sono quelle giuste o no. Ok, perfetto. Tu invece in questo periodo a cosa stai lavorando? Che sei sempre immersa nelle tue inchieste, se lo puoi dire ovviamente. Vabbè, sì, un po' di tutto. Sì. Qui siamo ancora 3 anni dopo la crisi, scoprendo delle cose che non sono molto, molto buone. E poi ovviamente con il governo ancora facendo le pulizie, diciamo. Uh-huh. Adesso il governo sempre a ottobre si vede come vuole spendere i soldi, certo. Il governo. Sì. E quindi bisogna vedere, cioè, stanno ancora tagliando. Siete sempre lì. Sono ancora grandi, quello stiamo seguendo molto bene. Perfetto. Grazie davvero Tora, come sempre, per la tua disponibilità. Buon weekend. Non ti chiedo cosa fai nel weekend, perché di solito ci parli di viaggi clamorosamente belli nelle zone. Quindi guarda, giusto per non scattare di invidia. Mi sa che questo weekend vado sui fiordi di Ovest, dove sto facendo un documentario sugli ultimi contadini che vivono ancora lì. Veramente interessante. Fantastico. Gente incredibile. E insomma, parleremo anche di questo presto, mi piace. Grazie davvero, speriamo. Tora, buon weekend, buon lavoro. Ancora buon sabato da Federico Taddia, l'altra Europa, l'Europa raccontata nelle sue mille sfaccettature, un programma in collaborazione con Euronet, e colgo l'occasione per ricordarvi l'Euronet Award, questo concorso per aspiranti e giornalisti. La rete di radio europea organizza infatti questo award, un concorso riservato a giornalisti, aspiranti giornalisti che non hanno ancora avuto esperienze professionali. L'obiettivo è quello di incoraggiare la pratica del giornalismo europeo. Ogni radio, ogni nazione avrà un suo candidato e potete essere selezionati anche voi, e fino al 19 ottobre, appunto, che è la data di scadenza della raccolta delle domande di tutti i candidati italiani, basta spedire un curriculum, un esempio di una propria produzione audio e la presentazione del progetto relativo alla tematica dell'anno, che è i diritti dei cittadini europei. Tutto questo va spedito all'indirizzo world@euronet.eu, ma sul sito di Radio 24, radio24.it, trovate tutte le informazioni dettagliate per partecipare a questo concorso. Euronet anche ogni settimana sceglie un argomento comune che viene poi sviscerato da ogni singola radio, da ogni singola nazione. Il tema di questa settimana è la scienza come forza che guida la crescita. In questo momento ci sono i negoziati per il programma quadro per la ricerca FP8, e negoziati in fase cruciale per gli stanziamenti relativi alla ricerca nei prossimi anni, gli stanziamenti appunto europei. E la diatriba è quella, appunto, a cosa servono questi finanziamenti per andare a incentivare la ricerca pura, la ricerca di base, diciamo, o deve essere una ricerca finalizzata solo allo sviluppo degli affari, che è un po' una diatriba che da sempre continua. Anche noi quindi volevamo portare il nostro contributo, e per farlo abbiamo invitato il professor Riccardo Pietrabissa, docente presso il Politecnico di Milano e presidente e fondatore del Network per la valorizzazione della ricerca universitaria, NETVAL. Buongiorno Riccardo e benvenuto all'altra Europa. Ciao Federico, buongiorno. Allora, la ricerca, che è un parolone, tra l'altro siamo anche, insomma, c'è stata la notte dei ricercatori da poco, quindi tema attualissimo, per fortuna, fammi aggiungere, e qui questa diatriba che accompagna, no, ogni volta che si parla di ricerca o che si chiacchiera un po' con i ricercatori. Cosa ha senso finanziare? La ricerca di base, quella che sembra una ricerca inutile, o va finanziata solo la ricerca che ha immediate ripercussioni economiche? Ma mi verrebbe da dire, ha senso raccogliere l'uva o seminare la vite? Questo è un po', se vuoi, no? Perché a tutti fa piacere bere il vino, però bisogna partire dal semino che tira su il tralcio, qualcuno deve coltivarlo. Oggi si ha molta fretta, perché siamo in comunicazioni rapide, perché sembra che tutto la borsa ci insegue, è una cosa terrificante, e purtroppo la ricerca ha i suoi tempi. se vogliamo avere dei frutti di pregio bisogna seminare un po' indietro. Questo è difficile perché è un rischio, come sempre c'è un rischio di impresa nei governi che decidono di investire in ricerca. Però ecco, credo che sia un po' semplicistico ritenere che i frutti della, che bisogna investire solo sui frutti della ricerca. Il vero problema, secondo me, che forse molti non colgono, è che è veramente importante investire in quella che molti chiamano ricerca fondamentale, ricerca di base, che possiamo anche definire a priori inutile, nel senso che non ha un'utilità evidente. Ma è molto importante che chi fa questa ricerca abbia la sensibilità delle possibili ricadute, perché altrimenti in effetti rimane inutile, o meglio inutilizzata. Quindi credo che il tema sia che il sistema della ricerca è un sistema complesso e occorre avere una vision un po' di lungo periodo, sì, per avere dei risultati spendibili oggi e domani. Certo, tu col network appunto parli di valorizzazione della ricerca universitaria, e credo che valorizzazione a mille accezioni, tra cui proprio quella di mettere in contatto, in facile comunicazione anche, in confronto, quello che succede all'interno dell'università e quello che succede fuori dall'università. Io per esempio sono recente testimone di Startup, questa iniziativa sull'innovazione in Italia, ero presente alle finali in Friuli, adesso fra poco ci saranno le finali nazionali, che mi sembra per esempio un bellissimo intreccio, una bellissima contaminazione tra ricerca, innovazione e possibili sviluppi economici. Ma sì, l'idea è nata ormai qualche anno fa e ha avuto sicuramente moltissimo successo. È un'idea che spinge, diciamo, giovani ricercatori, studenti, dottorandi a fare un business plan. È una business plan competition. Un business plan, cioè, a cercare di dare un valore di prospettiva industriale ed economica a un'idea che nasce, a un progetto che nasce dalla ricerca. Quindi diciamo è un test, è un gioco in cui ci si mette a prevedere le ricadute. È interessante perché comincia a stimolare negli ambienti della ricerca il cercare di capire quale può essere il valore di ricadute. Quando parlo di valore, io come Netval non parlo di valore economico, certo, in via esclusiva, parlo di valore sociale, perché il vero problema è capire che la ricerca ha delle potenziali ricadute sociali, fra queste quelle economiche evidentemente sono rilevanti, ma non sono esclusive. Si pensi appunto all'agricoltura, si pensi alla salute, si pensi anche a modelli di tipo politico-culturale che hanno delle ricadute importanti nello sviluppo, nella competitività dei paesi, nella democrazia, e che non sono valori immediatamente economici. Cioè, io personalmente stima assoluta perché fa poi ricerca pura, ricerca di base, ricerca senza finalità, nel senso che poi se uno ama la ricerca poi ci deve essere qualcun altro, credo, ad ottimizzare la sua ricerca, no? Non è che tutti devono saper fare tutto, e credo che anche questo rientri nell'ambito del tuo network. Ma ti faccio un esempio che credo sia emblematico di queste cose, perché tutti pensano che la ricerca lunga sia la ricerca per esempio farmacologica, no? In, sì, cui è chiaro che prima di portare sul mercato un prodotto passano spesso molti anni, ma pensiamo che Internet di fatto è nata più di 25 anni fa, la prima connessione di rete in Italia credo sia dell'86, ma noi abbiamo Internet in casa da meno di 10 anni, quindi in effetti ci sono dei tempi di sviluppo tecnologico che noi non vediamo, ma che sono assolutamente centrali. La prima telefonata, almeno così si dice, sì, da un cellulare è del 73. Ecco, io credo che il primo cellulare che abbiamo avuto in tasca è della fine degli anni 90. Quindi la ricerca porta anche a dei risultati, ma prima che questi siano spendibili ci sono dei tempi. Ecco, questi costi qualcuno deve sostenerli. Riccardo, c'è una visione europea comune in questo ambito? Sì, ma guarda, ora partirà, come hai anche accennato, il nuovo progetto si chiama Horizon 2020, quindi ha una visione, diciamo, di medio periodo decennale, rientra nella visione europea 2020, che è una visione di sfida, non più di cercare di ricadute industriali di immediata competitività rispetto agli Stati Uniti piuttosto che al Far East. No, visione veramente lunga, e ci sono tanti progetti interessanti. Uno di questi, faccio questo esempio, si chiama flagship, cioè la nave ammiraglia, qualcosa che solca i mari, e una di queste, per esempio, flagship che sono oggi in competizione, una flagship da 1 miliardo di euro di investimento per 10 anni, quindi una cosa importante, la cui finalità è quella di mettere insieme i fisici che studiano la complessità, gli scienziati sociali e internet e l'informatica, per far cosa? Per riuscire a fare un modello di simulazione di come evolve il mondo sulla base di variate condizioni al contorno, che possono essere decisioni politiche, crisi energetiche, epidemie, mobilità di popolazioni. Cioè, immaginiamo di poter sapere e prevedere come le azioni dei decisori possono cambiare le strategie economiche, sociali e politiche, mettendo insieme appunto discipline tra loro apparentemente molto distanti. E questa è una tipica sfida in cui l'Europa oggi pensa di voler giocare un ruolo a livello planetario. Insomma, è bello, è quasi incomprensibile anche per noi, no? Che poi le subiamo nel senso buono i frutti di queste ricerche, ma c'è tutto un mondo bellissimo, è fatto di teste, e questo ci piace. www.netval.it è il sito ufficiale del network per la valorizzazione della ricerca universitaria, di cui è presidente Riccardo Pietrabissa, che ringraziamo. Ciao Riccardo e buon lavoro a te e a tutto il tuo team. Ciao, grazie, buona ricerca. Ciao. Credit crunch, bank bailouts, debt. It's always bad news when it comes to finance. Personal debt in the UK rises every day and is now higher than GDP. This is hardly surprising, as seen as more than 90% of British adults have never been taught how to manage their money. My bank addresses this need by developing young people's finance and enterprise skills. Young people learn through fun and interactive sessions while developing practical skills that will be essential throughout their lives. My Bank in a Box is the first ever FSA-approved bank run by young people for young people. Buongiorno Lili. Buongiorno, ciao Federico. Ciao. Ci vuoi raccontare tu cosa stiamo ascoltando? Sì, allora MyBank è un'impresa sociale che ho creato nel 2007 in Inghilterra, dove io vivo, e lavoriamo con i giovani dagli 11 ai 25 anni, creando delle opportunità per loro, dei programmi di formazione intorno alla formazione finanziaria e imprenditoriale. Abbiamo diversi strumenti, tra cui molti workshops di formazione, ma anche un programma credito gestito proprio dai giovani, che permette loro di avere accesso a dei piccoli prestiti che usano per mettere su delle attività imprenditoriali nelle loro comunità. E così sviluppano una serie di veramente lezioni di vita e di caratteristiche che li aiuteranno nel loro futuro a trovare lavoro o a creare il proprio lavoro. Allora, sentire parlare Lili La Penna, intanto le diamo il benvenuto, è curiosa, è particolare, è anche delle incredibile. Lili, quanti anni hai tu? Io ne ho 31. Ne hai 31, hai origini italiane perché i tuoi genitori sono italiani, vivi a Londra e, insomma, detta così anche in maniera semplicistica, di fatto hai ideato, hai fondato, hai aperto una banca? Sì, è una banca dei giovani, è una banca per i giovani, è una banca che veramente usa degli strumenti finanziari per creare un progetto di istruzione, per creare una formazione che secondo me è cruciale nella vita di ognuno di noi e che non ci viene insegnata né a scuola né spesso dai nostri genitori. Per cui una cultura verso il risparmio da una parte e capire come gestire le proprie finanze e dall'altra sviluppare uno spirito imprenditoriale. Da dove nasce tutto questo? Nel senso, da dove ti è venuta l'idea e dove anche hai acquisito le competenze per farlo? L'idea mi è venuta soprattutto, io ho avuto una grande passione nel lavorare con i giovani, nella cooperazione e lo sviluppo, quindi trovare delle soluzioni a situazioni disavvantaggiate, però in particolare questa idea nasce da un periodo di lavoro che ho fatto in Bangladesh dopo la mia laurea, dove ho passato molto tempo con donne imprenditrici che tramite dei prestiti di microcredito avevano messo su degli incredibili business e avevano cominciato a gestire le proprie finanze in modo molto efficace. Da loro ho imparato molto e ho pensato che creare un progetto simile per i giovani li potesse preparare ad avere un migliore futuro, e quindi sono tornata in Inghilterra e ho cominciato questo progetto, che adesso veramente siamo in altri paesi e speriamo di trovare modo anche di portarlo a un certo punto in Italia, che ovviamente le mie origini sono italiane. Torniamo a Londra con Lily La Pena, 31 anni, madre abruzzese, padre romano, è la banchiera dei giovani, così è stata definita, è stata inserita anche in una classifica dei giovani global leader dal World Economic Forum, così una contaminazione tra economia sociale e gioventù, le risorse che permettono ai giovani forse anche di soddisfare i propri sogni. Lily, come funziona MyBank? Ci puoi fare proprio una sintesi operativa? Sì, andiamo in una scuola o in un'associazione giovanile, facciamo un training per 12 giovani e loro poi diventano banchieri, hanno tra gli 11 e i 20 anni. Gestiscono poi queste banche per un periodo di 1, 2, 3, 4 anni, insomma dipende, e aprono la banca verso i loro coetanei che possono risparmiare regolarmente settimana dopo settimana ed entrare in una cultura positiva verso il risparmio. Dall'altro lato amministrano dei piccoli prestiti senza tasso di interesse che i loro coetanei possono usare per rendere una loro idea, un loro sogno, qualcosa di concreto, quindi mettere su un'attività imprenditoriale all'interno della loro comunità. Se vuoi ti posso dare due esempi molto carini, sì, grazie. Di recenti imprese che hanno messo su. Uno molto creativo, un gruppo usando materiali e riciclandoli, come per esempio vecchie tende e vecchi vestiti, messo su una sfilata di moda con tutti questi vestiti molto particolari usando un modello di recycling, upcycling. Poi hanno fatto pagare persone per venire alla sfilata e hanno poi venduto i vestiti. Un altro gruppo invece si è messo insieme, ha preso un prestito e ha creato una compagnia che usando software open source crea siti per i commercianti nella loro comunità. Quindi questi sono due esempi recenti abbastanza carini. E questo è il modello MyBank. E poi in più di questo programma di microcredito facciamo dei workshop formativi che lavorano con i giovani tra i più svantaggiati, vedendo quali sono i loro problemi con i soldi. Per esempio molti giovani in Inghilterra soffrono di indebitamento, hanno molti debiti, e quindi li aiutiamo a capire come gestire questi debiti, come cominciare a usare un budget e come interagire con il servizio finanziario per cui possa lavorare per loro invece che contro di loro. Lily, ma la crisi spaventa anche MyBank? Ma la crisi a noi ci ha reso sempre più rilevanti, perché noi dal 2008 siamo cresciuti a un livello di 70% anno in anno, proprio perché il nostro lavoro è diventato più rilevante, cioè il fatto di avere una popolazione, un consumatore informato su come interagire con il servizio finanziario è diventato più importante, per cui noi abbiamo lavorato sempre di più. Però è ovvio che a me spaventa la crisi, soprattutto per i giovani con cui lavoriamo e per i loro prospetti futuri. Certo. Lily, prima hai detto che anche in Italia ti piacerebbe lavorare presto, vuol dire che sta nascendo qualcosa di simile anche qua? Sì, stiamo creando insieme ad Alberto Campora, che è un ragazzo italiano che vive anche lui a Londra, un progetto che si chiama SEI, Social Enterprise Italy, e che è un movimento in realtà che vorrebbe portare insieme gli imprenditori sociali in Italia con quelli a livello internazionale, cioè un movimento molto grande di imprese sociali, e poi portare delle franchise di imprese sociali che lavorano in Inghilterra, che funzionano bene per esempio qui, e portarle in Italia. E quindi cerchiamo dei giovani imprenditori sociali che sono interessati a per esempio creare dei progetti tipo MyBank in Italia, e con questo sperando di creare lavoro e opportunità per i giovani italiani. MyBank.org è il sito ufficiale che già abbiamo messo nelle nostre pagine in Facebook, oppure www.vogliovivereconsi.com il sito dove abbiamo trovato una bellissima intervista a Lily, e potete insomma conoscere meglio la sua storia. Grazie davvero Lily e complimenti, perché insomma mi sembra un ottimo messaggio che le cose si parla molto in questi giorni, ahimè, di essere folli e affamati, e credo che la tua sia una risposta del fatto che le cose si possono veramente cambiare facendole, giusto? Grazie, sì, assolutamente, hungry and foolish. Ciao Lily, grazie. Ciao. Ciao, grazie. Vedo già Davide Paolini, il gastronauta, pronto dall'altra parte del vetro, subito dopo il GR, sarà qui in diretta, sempre su Radio 24. Un grazie a Margherita Ina, che con me ha scritto la puntata, a Giorgio De Luca in assistenza e a Peter Bescapè alla parte tecnica. Ci trovate su Facebook o ci trovate via email radio24.it per riascoltare la puntata da lunedì. Ancora ciao da Federico Taddia.